Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Benvenuti, bentornati, come va? 9 giorni a Natale, caro Oldani. Ci siamo. Comincia a festeggiare, vedo che sei pronto, sei già al tovagliolo. Attaccare le forchette, pronto per le grandi mangiate. Non manca molto, diciamo, all'appuntamento è oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Faremo una cosa originale oggi, parleremo del... Panettone, il nostro panettone. Parliamo del classico panettone, potremmo parlare poi anche del pandoro, possiamo parlare del panettone gastronomico, di quello alto e di quello basso, di quello salato, di quello da farcire. Quindi c'è un'infinità di possibilità nel godere del panettone. Fammi già dire che la settimana prossima invece avremo una puntata a 2 giorni dal Natale, tutta sul cenone del 24, sul pranzo del 25, quindi insomma roba seria. Posso dire che poi tu darai un menù esattamente come hai capito in questi nostri mesi. Un menù ben corretto, armonico su quello che è il Natale, il tema del Natale. Cucina, tortellino, vabbè. Allora, 02 30 22 41 84 è la segreteria telefonica, 349 238 6666 per i vostri messaggi vocali, per gli SOS Oldani. Abbiamo un uomo, un mito, Savino, buongiorno! Buongiorno ragazzi. Ciao Nicola, ciao, buongiorno. Che manca molto, ciao Davide, ciao Pierre. Devo dire fatti l'uno per l'altro, perché uno cucina e l'altro mangia. Esatto. No, poi la trasmissione, in effetti, come è stato detto da qualcuno, da un nostro amico, è Mangia come Pardo, esatto. La nuova versione. Mangia come Pardo non è male. Sì, sembrate, sai, il velcro che ha quelle due parti che aderiscono perfettamente, no? Sì, quindi sì, una, un proprio perfetti, nati l'uno per l'altro. È diciamo. Un incrocio di destini in una strana storia. No, ma la citazione di Mangia come Pardo è del direttore Mentana, che sappiamo è un grandissimo battutista. Certo. È un uomo di grande... L'autore dell'espressione webeti, esatto. Quelli del web un po' fessi che commentano ogni cosa, quindi no, grande rispetto, grandissimo, grande Mentana, grande Bardo e soprattutto mitico. Grande. Senti, ma come... No, mi fai Costanzo, il Costanzo quello nuovo, scusa, poi parliamo di panettone. Costanzo intanto nuovo. Che degusta un panettone. No, il Costanzo quello... Costanzo nuovo alzato di due semitoni la voce, perché questo è il punto. Allora, ben ritrovati, eccoci qua, adesso parliamo seriamente. Vai. Di panettone. Se ti dicessimo, caro Maurizio, scusami Nicola, se ti dicessimo panettone, visto che insomma Milano è un po' la tua città, eccetera, cosa ci dici? Cos'hai, un aneddoto, un qualcosa che ti ricorda il Natale, il panettone in generale? Allora, io sono uno degli infedeli, perché da bambino, come devo dire molti bambini, la sto rivivendo un po' anche con mia figlia, da bambino, ecco, sono stato infedele, più che sono infedele, propendevo per il pandoro perché non aveva l'uvetta, quindi ero infastidito dall'uvetta e dai canditi. Invece adesso col tempo ho recuperato. Ma siamo, posso dire, siamo tutti così. Guarda che è una... pure tu. Ma no, ma è normale, perché poi da piccolo non è ancora il palato abituato agli agrumi, all'acidità, al profumo, quindi è normale che vai più su una cosa quindi basica. Quindi è una tendenza che voi esperti di cibo di alto livello studiate quasi. Lo studiamo, però è un po' l'istinto dell'uomo, dell'istinto del bambino. E poi una cosa però si differenziava, andavi più da coltello o da strappo il panettone o il pandoro? Ovviamente più giovane sei, più selvaggio sei, quindi esatto. Evidentemente andavi a strappo, andavi al centro, andavi... Poi essendo cresciuto in una famiglia eravamo in 5, noi tre fratelli, in realtà avevo due sorelle grandi, ci si rubava l'affetto dei genitori e il cibo, e rubare il cibo voleva dire strappare il cuore del panettone, certo. Per esempio, no? Il meglio del panettone. Il meglio del panettone. Senti, ma tu sei, come te la cavi ai fornelli in generale? Adesso scendo per un attimo dal panettone. Abbastanza bene. Hai una ricetta? Hai una ricetta? No. Un jingle! La ricetta di Nicola Savino. Qual è il tuo piatto? Cosa sai fare? Dai. Oddio, guarda, le solite quattro cose, però le faccio bene. Cioè, io so fare la routine. E sì. La mia routine è fatta di cose, devo dire, abbastanza tristi. Filetto sfilettamento di branzino, quindi me lo faccio già sfilettare con la pelle, sì, dal pescivendolo, e poi butto la piastra calda, metto il filetto di branzino con un po' d'olio e gli butto il vino bianco, ah, e lo faccio sfumare e viene buonissimo. Ma tu sai che Nicola è un gran gourmet, lui frequenta ristoranti, insomma. A me piace molto andare a mangiare, in particolare. Devo dire dei presenti, perché la tua cucina di Pardo non l'ho ancora provata, no. Quella di Oldani ho avuto la fortuna di provare, e Oldani ha una cipolla caramellata che è una cosa... da piangere. Ma la cipolla caramellata di Oldani è un oggetto erotico, non è più neanche cibo, è in proprio è libidine, sì, pura. No, veramente. Ed è la cosa bella, poi per un per un figlio di progressisti come me, è che è un piatto popolare, certo. Quindi è non divide, non esclude, ma include. Quindi questo è meraviglioso. Un arricchimento, no? Della nostra terra, no? Il rivalutare dei prodotti che si erano quasi dimenticati, adesso con le stagionalità, con quello che è anche l'idea della gente, delle persone, di conoscere sempre più i prodotti accessibili, insomma, la cipolla è quella che ci ha fatto fare il salto. Ma anche il peperone, per non parlare del fagiolo, sì, la grandezza del fagiolo. Quando facciamo una puntata sul fagiolo? Faremo sul fagiolo. Generale, sui legumi in generale, con la cicerchia anche, quindi potremmo parlare di questo. Sì. Se cicerchia, dobbiamo andare. C'è il traffico. Stai lì, Savino, che poi ci spieghi questo branzino. Una volta che l'hai sbollentato, una volta che l'hai sminuzzato, una volta che l'hai bagnato col vino. Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono. Una pazzia. Sviluppare la Costantin Card dedicata alle aziende? Una pazzia. Puntare sempre su nuovi servizi offrendoti la qualità al miglior prezzo? Una pazzia. E ora che ogni settimana mettiamo in palio un anno di rifornimento gratis? Beh, forse hanno ragione. Siamo proprio pazzi. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Mangia come parli. Allora, il branzino di Savino, siamo rimasti qui. Lui lo come si dice? Lo prende già sfilettato. Lo prende già sfilettato, il pescivendolo. Tutto giusto, no? Tutto giusto. Assolutamente. Poi lo sfuma col vino bianco. Come si fa questa sfumatura, Oldani? Vuoi darci? No, basta aggiungere un goccio di vino bianco. Io suggerirei un goccio di vino bianco. Io farei un passito che dà un po' di dolcezza. Ah. Però no, naturalmente, questa è una bella idea. Facendo attenzione alle spine, perché di solito quando lo sfilettano raramente tolgono le spine. Davide, ma il mio pescivendolo è professionista. Il mio pescivendolo parla così, io ti giuro che non esagero. Ma sai perché Andrea, perché alle 3 del mattino è il numero 1 di Milano. Grande pescivendolo. Senti, invece della tua origine meridionale, c'è una passione legata al cibo del Assolutamente. Infatti stavo arrivandoci, perché sennò sembro veramente la fighetta che non sono in cucina. Invece c'è questo grande classico di casa Savino, è la parte calabrese. Io avevo i due genitori che erano meridionali, mamma di Cosenza e papà di Foggia. Sì. E mamma di Cosenza stava ai fornelli, pur lavorando, faceva la farmacista, stava ai fornelli, e la domenica, e capirete perché solo la domenica, faceva la pasta al forno. Come si fa la pasta al forno? Si fa un sugo di carne molto pesante, con dei pezzi di carne dentro, gli stessi del bollito, del brodo, qualsiasi cosa, tutto fa sugo. Tutto pesante, tutto deve essere pesante, mi piace. Ok, benissimo. Dopodiché si fanno delle polpette, io le compro già fatte dal mio macellaio che me le fa, polpette di carne mista con prezzemolo, pangrattato, e si friggono. E queste ve ne friggete, che ne so, 50 piccoline e le tenete lì. Dopodiché si preparano le melanzane togliendo il sale, ma questo lo sa Davide come si fa a togliere, non il sale, l'acqua, togliere l'acqua dalle melanzane. Salandole leggermente, lasciandole un po', tipo un paio d'ore almeno a depurare. E lì va via l'acqua. Va via un po' l'amaro. Ok. Esattamente, e si friggono, pure queste si friggono, ok? Sì. Ok, allora abbiamo le polpettine fritte, abbiamo il sugo fatto. prendiamo della mozzarella per pizza, quella che non fa acqua, quella proprio quella spessa, quella mattonella proprio da pizza da casa, sì. Ok? Si taglia a pezzettini, si fa la pasta, dopodiché in una teglia si mette la base di sugo, quello bello bello unto così, i maccheroni ancora bianchi, poi si mettono le polpettine, poi si mette la mozzarella, poi si mette la melanzana. E poi di nuovo, sopra pasta, sopra sugo, sopra polpettine, 3-4 strati così, sì. Aspetta, non è finita. Alla fine, grattatona di parmigiano in forno a 200-220 per mezz'oretta, perché così diciamo cuoce, gratina o gratina, che dir si voglia, e dopodiché... si digerisce per tutto il 2018. Ecco, infatti sto dicendo, è un piatto unico però per una settimana. È un piatto unico per una settimana e i miei appunto non ci sono più e ogni tanto ci cimentiamo, lo rifacciamo ed è veramente un piatto anacronistico, se posso dire, perché proprio certo. Non è più possibile digerire questa cosa con la vita che si fa adesso, no? Sì, sì. Cioè, però devo dire che è una bomba, è buonissimo. Però per queste domeniche di dicembre, queste domeniche invernali, direi che ci sta bene, no? Però c'è la melanzana che rispetta una volta, oppure fatto sì, al sud è un conto, magari fatto a Milano fritto, la melanzana la trovi raramente, magari adesso puoi cambiare con la polpettina, magari fare un po' di sugo, di ristretto di pomodoro, però quello che la conserva, e poi aggiungere una verdura invernale. Ma a me piace comunque l'approccio risavino al cibo. Ci ricorda un po' un nostro amico, eh? Grandissimo Giampiero Galeazzi, mi ricordo, io sono leggero, ho mangiato soltanto due carrelli di bollini interi, grandissimi. Grande Giampiero. Senti, va bene, e quindi insomma, il tuo Natale, visto che manca poco, come si svolge? Cioè, fate quelle cose infinite che durano? Nelle famiglie, no? In tutte le famiglie normali, soprattutto quelle con vari fratelli, cosa si fa? Si fa un turnover quest'anno a casa mia, l'anno prossimo a casa tua e l'anno dopo a casa dell'altro. Beh, il turnover di casa Savino è quest'anno a casa mia, l'anno scorso a casa mia, l'anno prossimo a casa tua. Mia. Quindi cucini, quindi ti dedichi alla cucina anche. Cucino e cucino, tra parentesi, tragicamente di magro, cioè vuol dire che siccome facciamo la vigilia sì, a casa chiaro, nostra, certo. È tutto pesce, quindi ecco lì me la cavo molto con dei carpacci. Tanti sì. Carpacci, me la cavo molto con pasta con la bottarga, che quella va sempre bene, cioè cose facili. E poi o magari un pesce al sale, insomma. Beh, questa vabbè. Roba qua. Senti, ci vuoi dare l'indirizzo che magari ci aggrediamo? Dobbiamo fare un richiamino il 24 sera, chiamiamo Tommaso Paradiso. Un attimo, grande. No, siete tutti invitati. Diciamo, perfetto. Allora, tutti gli ascoltatori. Oltani è aperto per Natale perché ho una curiosità. No. Siamo chiusi, noi dal 24 dicembre all'8 di gennaio siamo chiusi. Hai capito? Si è montato la testa, non è più lontano. Riaprite in tempo perché il 9 di gennaio parte il mio nuovo programma su Italia 1. È un programma il cui titolo non vi posso ancora svelare, ma è un programma che parla degli anni 90, celebra e parla di anni 90. Beh, è una grande festa sugli anni 90 da martedì 9, insomma manca poco meno di un mese. Bene. Gli anni della caccia e pepe, giusto? Esattamente, gli anni della caccia e pepe, grande. Adesso, non c'è stata un'epoca senza caccia e pepe, non scherziamo. Grande Savin, allora in bocca al lupo per questa nuova avventura, nel dubbio stare sempre su Italia 1, lunedì, martedì, non sbagliate mai, mi sembra un'ottima idea. Anche domenica, anche Iene, insomma, di tutto di più. Grande Savins, complimenti, il branzino mi ha colpito, tanti ma soprattutto auguri. Quel piatto digeribile. Tanti auguri in anticipo, anche se mancano ancora un po' di giorni. Un abbraccio, grazie, ciao a presto. Maestro, mamma mia, quel Costanzo lì mi fa impazzire. Mettiamo un po' di musichetta, un po' di base, perché è arrivato il momento... No, prima della ricetta, mi dici cos'è la scarpatura? La scarpatura è un modo per tagliare il panettone per farlo lievitare, vuol dire che a seconda di come lo tagli c'è anche il taglio a croce, il panettone lievita e più sei incisivo, più riesci a dargli il taglio giusto, più il panettone aumenta di volume e più diventa soffice. Assolutamente, vogliamo toglierci già il pensiero, sai che io sono in ansia. Per la ricetta, sì. Dimmi, quando ti senti, sei concentrato, vai, io ci jingle, sono. Vai col jingle. Allora, oggi in che cosa dovrò cimentarmi, maestro? Facciamo una cosa che tu puoi fare prima di Natale o anche dopo, giusto? Come vuoi, nel come tempo vuoi, in cui tu avanzi un po' di panettone nel caso, o nel caso in cui tu lo voglia servire con lo stesso panettone. Allora, io direi una cosa molto semplice: prendi un pezzo di panettone, fai un 3-4 etti di panettone. Che tipo? Un panettone, io starei sul milanese, quello con un po' di agrumi e uvetta. Sì. O altrimenti ti direi una cosa in più: il mio panettone nuovo della collezione nuova di quest'anno, che è fatto con la paletta del fico d'India e il riso candito. Quindi o uno o l'altro, li metti a mollo in un po' di acqua calda, quindi 3 decilitri di acqua calda, bollente. Okay. Sì. Lasci a mollo per un paio d'ore. Sì. Quindi prendi questo panettone imbevuto. Due ore, che succede? Si rammollisce, si diventa imbevuto. Si imbeve di acqua. Si imbeve. Poi lo frulli in un frullatore, quindi questo credo tu lo possa fare. Sì, vabbè, ma neanche a trattarmi così, voglio dire, certo. Lo puoi fare, giusto? No, ma certo, ogni passaggio è delicato per la cucina. Nessun panettone verrà dopodiché lo metti, dovrai procurarti una gelatiera, quelle da casa che esistono in commercio, e mantechi questo gelato. Sì. Lo conservi in frigorifero. Per quante ore? Lo conservi, lo mantechi alla mattina, tipo alle 10 del mattino, e poi lo servi alle 4 del pomeriggio, quando hai il pranzo di Natale che va a lungo, no? 6 ore e basta? Quindi, manca un tocco? Più che sufficiente. Poi io direi, per completare questo piatto, dove tu hai questo gelato, questo sentore di gelato freddo e cremoso, potrei suggerirti di prendere un altro pezzo di panettone e scaldarlo. Facciamo lo caldo freddo. Caldo freddo, puoi aggiungere un tocco di rum leggero e servire una cucchiaiata di questo panettone sopra. Poi per chiudere la ricetta, tu sai cosa può mancare? Dai, secondo me, dopo questi mesi di allenamento, un po' di sapido manca. Bravo, e quindi? No, ma davvero? Certo, tu prova. Aumenti ancora di più il profumo del panettone, il sentore, quindi 3 scaglie di sale grosso. Allora, questa cosa mi piace moltissimo, perché io ormai su questo mi sono un po' convertito. Ho capito che l'elemento salato nel dolce, o viceversa, cioè il contrasto è fanno fare il salto. Quindi 3 scaglie del nostro sale, quello che usiamo sempre, il Maldon. Oppure anche un sale grosso italiano. Un sale grosso italiano, va bene. Però posso aggiungerti un'altra cosa, che questa ricetta può essere fatta nel momento in cui tu hai abbondanti panettoni, ne prepari una parte, te la conservi e poi tu servi questo gelato. Beh, fantastico, fantastico. Sarò all'altezza del mio compito. Io do il benvenuto, perché poi uno dice che il panettone è milanese, sicuramente è un simbolo anche culturale, gastronomico della città di Milano, ma in realtà è il panettone di tutti, al punto che il miglior panettone d'Italia del 2016 di Gazzacolosa è di un signore che conosci molto bene, che si chiama Alfonso Pepe, che non è esattamente, diciamo, dei Navigli, vero Alfonso? Hai ragione perfettamente, buongiorno a tutti. Buongiorno Alfonso, grazie di essere con noi. Ma com'è per un napoletano, per un campano, avere il miglior panettone d'Italia? Cioè, è come, non so, andare a vincere a San Siro? Beh, è come il primo amore, avere tanta passione per questo lavoro. Ma com'è il tuo panettone? A parte che Oldani l'ha mangiato. Allora, il nostro panettone è caratterizzato dalla nostra personalizzazione sugli ingredienti che andiamo ad utilizzare, che è una base agrumatica dei nostri agrumi freschi dei Monti Lattari qui. Che sono decisivi, perché sappiamo che l'elemento del, come si dice, l'elemento dell'acido, un po' dell'agrume, dell'agrume. Profumo e lievito anche. Ecco, il lievito madre, si parla molto di lievito madre, no? Il mantenimento, la preparazione dell'impasto lievitato. Quanto pesano tutte queste componenti della creazione? Vabbè, quello è l'elemento essenziale del panettone, perché avendo un buon lievito madre, noi abbiamo la morbidezza, la dolcezza del panettone, la durata più a lungo. È ovvio, insieme al lievito madre si aggiunge la farina, perché se non abbiamo una farina di ottima qualità non avremo mai un panettone di ottima qualità. In poche parole, col panettone si parla solo di prodotti di qualità, se no non esce mai un prodotto di qualità. È un gioco di parole. No, è vero, è un gioco di parole, ma sai, poi la cucina è semplice nella sua grandezza. Senti, ci fermiamo un attimo, poi Oldani credo che abbia tantissime curiosità. Ripartiamo da qui fra un attimo, poi sta per arrivare anche l'SOS Oldani. No, oggi sono in viaggio tutto il giorno, ma riesco a fare tutto, non preoccuparti. Ma se hai la riunione alle 11, il progetto Top Secret è con gli altri e hai anche lasciato il caricabatterie in ufficio, come fai? Hai i superpoteri? No, ho Windows 10 Pro. Acquista subito un PC con Windows 10 Pro. Potrai aumentare la tua produttività ovunque tu sia, in ufficio e in viaggio, e garantire la massima sicurezza e protezione dei dati ai tuoi clienti. Con Windows 10 Pro avrai il perfetto partner in affari. Ah, ecco, allora lo voglio anch'io. Scopri di più su Microsoft.com Windows per l'azienda. La nostra storia è iniziata più di 40 anni fa. E oggi, come un tempo, scegliamo i nostri prodotti, rispettando la tradizione e cercando la migliore qualità. Ogni giorno mettiamo passione nel nostro lavoro, per i nostri clienti, che trovano genuinità e freschezza al prezzo migliore. Da più di 40 anni con voi, Supermercati Alì. Perché la nostra storia, da sempre, è anche un po' la vostra. Ho solo cliccato un link. Un gesto abituale può mettere in ginocchio la tua azienda. Gli attacchi informatici aumentano di ora in ora per numero ed efficacia, minacciando business e continuità operativa. Proteggi il tuo lavoro con Kaspersky Lab, l'azienda di cyber security più premiata al mondo. 400 milioni di utenti hanno già scelto l'affidabilità di Kaspersky. Vai su kaspersky.it o contatta un nostro partner. Pensare, immaginare, progettare, misurare, scegliere, allestire, pianificare, costruire, rifinire, restaurare, conservare, recuperare. Poi ancora pensare, immaginare, progettare, misurare, scegliere, allestire, pianificare, costruire, rifinire. Nel lavoro non c'è spazio per i contrattempi. Per la tua azienda scegli un partner affidabile come Enel Energia, che ti garantisce contratti semplici, prezzi chiari e bollette trasparenti. Così sei sempre consapevole dei consumi e dei costi. Scopri l'offerta giusta per te. Vai su Enel.it o vieni in uno dei nostri negozi. Enel Energia per il mercato libero. Con Chuck Norris non conviene lo scontro, ma lo sconto sì. Con la fine dell'anno arriva lo sconto finale di Fiat Professional. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E con il leasing FCA Bank, pianale sagomato e antifurto meccanico del vano di carico by Mopar inclusi nel prezzo. TAN 3,95 tasso leasing 403, info su fiatprofessional.it. Affrettati, lo sconto finale scade il 31 dicembre, scoprilo anche sabato 16. Per una volta Chuck concede un lieto fine. Scontissimi uni euro. Il Huawei P9 Lite a solo 179,90 euro. 70 euro di sconto. Promozione valida fino al 24 dicembre. Uni euro. Batte forte sempre. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, sappiamo che Oldani è un filosofo panettonaro, ma filosofo della cucina non regionale, no? Dell'idea non regionale italiana, ecco, certo. E questa, oggi abbiamo una conferma, perché abbiamo una grande eccellenza campana in una ricetta che, insomma, tradizionalmente appartiene a un territorio diverso. Il no? titolo della ricetta appartiene alla tradizione milanese, però siccome la ricetta è un pane lievitato a questo punto con l'aggiunta, con i profumi degli agrumi e delle uvette, credo che insomma adesso al sud, a Napoli, alla Sicilia, ci sono tante persone che fanno panettone. Perché? Perché conoscono bene la lievitazione. Però io ad Alfonso volevo chiedere un'altra cosa. Lui si è differenziato, a parte con la sua qualità del panettone e della lievitazione e degli ingredienti del territorio, due parole sulla pastiera. Credo che la pastiera lievitata che tu fai sia veramente un fiore all'occhiello della cucina, della pasticceria italiana. Puoi darci due indicazioni? Dove hai preso lo spunto e perché hai deciso di fare questo passo? Beh, grazie Davide. Guarda, dove ho preso lo spunto? Io dico, ho fatto un matrimonio tra il nord e il sud. Ho preso degli ingredienti del sud e ripieno della pastiera che andiamo a fare con la ricotta, grano cotto, zucchero, uova, canditi. Io preparo questo ripieno e nel pre-impasto che andiamo a fare la sera vado a inserire questo ripieno. E gioco molto sugli agrumi, perché la pastiera, come noi tutti sappiamo, c'è un prodotto che io dico, a me non piace, perché quel profumo che è il fior d'arancia in Neroli che si usa in pasticceria aggredisce poi tutti gli altri sapori che noi abbiamo messi all'interno di questo dolce. C'è un po' imbanente in pratica. Fresco. E alla fine gli do una bagna alla zagara, che sono fiori di agrumi. Certo. per rendere la morbidezza e la conservazione più a lungo. Ma poi la genialità nel comporre questa pastiera, Sofice, te la farò assaggiare Pierre, perché veramente arriva dalla cultura di una persona che ama il territorio, e vedi che normalmente nella pastiera hai questa parte croccante della pasta frolla sotto e poi è ripieno molto morbido. In questo caso hai una pasta molto soffice e sopra hai queste righe di frolla molto fini che danno quel croccante in più alla vicino alla morbidezza. È una cosa veramente unica. Devo dirti che alcuni giorni fa ne ho aperta una, ne ho mangiata praticamente quasi tutta, quindi puoi capire come sia buona questa cosa. Non vedo l'ora di assaggiare. No, mi piace molto questo concetto, comunque, che tutta l'Italia si cimenta sulle ricette tradizionali, ma le declina con l'eccellenza del territorio. Poi, perché oggettivamente, per esempio, la delizia al limone, io non so se vogliamo parlare un secondo. Come no, certo che la facciamo. Un soffice pan di Spagna farcito con una crema fatta sempre a base di aroma di limoni che prepariamo noi, con limone fresco e zucchero, e viene fatta crema chantilly e aromatizzata con questa crema, questo aroma di limone, pasta di limone, scusa, aroma perché è una parola un po', e alla fine viene inciuffato con limoncello e glassato sempre con questa crema chantilly. Ecco, allora questa è una cosa fuori tema, però fuori l'idea tema, tornando però. Molto buona, bella, molto bella, tornando bella. Al discorso delle paste lievitate, vedi che ognuno nella propria regione, se ci mette dell'amore, trova le regole giuste per fare anche la ricetta della tradizione in una versione più moderna. Alfonso fa anche questo panettone nel vaso cotto. Ci dai due spiegazioni e poi ti lasciamo al tuo lavoro. Qui ti correggo, Davide. Ecco. Perdonami. Ok, vai. Non faccio il panettone, ma faccio il babà. Vedo un prodotto ideale nel vaso, perché il babà è un prodotto inzuppato. E noi avevamo sempre difficoltà quando veniva un cliente a far viaggiare il babà. E allora mi è venuta questa idea di questo vaso e cercare di fare bilanciare una ricetta per il vaso con il babà in vaso cottura, bilanciato sia con la pasta che con la bagna. Una volta sigillato il vasetto che va in sottovuoto, è un prodotto che può viaggiare tranquillamente a 40 gradi o a meno 10, non subisce niente, e uno a casa è sempre il prodotto pronto, il dolce pronto da mangiare. E devo dire anche questo di grandissima qualità, vedi, con l'idea dell'innovazione, con una persona che lavora solo con prodotti del territorio e che conosce la tradizione, quanto si possa fare. Avresti mai immaginato 10-15 anni fa di un babà che lo trasporti in un vaso, per un vaso fatto in un vaso cottura, o di una pastiera lievitata? Questo è secondo me la grande cultura dei maestri pasticceri e di quello che è la cultura del cibo in Italia. Alfonso, grazie Alfonso. Che dobbiamo dire? Grazie, ti mangeremo tutto in senso lato, tutto il laboratorio ti mangeremo a breve, ti mangeremo, in bocca al lupo ad Alfonso. No, Pepe. Io ve li mando così non mi mangerai, grazie. Vabbè, no. Buono, però mi è piaciuto questo affare che mi c'è ha... qualcuno dietro che dice sì, che mi sembra. Qua c'è Giorgio De Luca, che insomma è partenopeo, quindi insomma sa di che cosa stiamo parlando. Grazie Alfonso Pepe, complimenti. Grazie Alfonso, veramente una declinazione del panettone in salsa campana. Quali sono i 6 punti per la preparazione di un panettone, caro allora, Dani? Preparazione del lievito madre, che è la cosa più importante, dove tu, vado in maniera veloce, metti a fermentare un po' di farina, un po' di acqua e il succo di un frutto acido. Posso dirti succo di limone piuttosto che un succo di mela. Quindi lasci lievitare e prepari il tuo lievito madre. L'altra cosa importante è che nella disciplinare del 2005 il panettone non deve avere meno del 20% del peso della frutta candita e uvetta e non meno del 10% di materia grassa. E questa è proprio una regola, diciamo, butirica, questo è per poterlo chiamare panettone. Poi naturalmente c'è la scarpatura, che è questo taglio oppure a croce, che sono i tagli che permettono al panettone di lievitare, quindi di essere più soffice, più morbido e più buono. L'altra parte importante dopo la cottura è capovolgere il panettone e lasciarlo per una decina d'ore in maniera tale che non si sieda ma rimanga questa cupola all'esterno. E poi l'ultimo è la pezzatura, credo che quella da chilogrammo sia quella più interessante. Pochi giorni fa sono riuscito a completare una pezzatura che sia molto vicino alla tua idea di qualità di panettone e di quantità, un 10 kg. Oh. Immagina il forno dei 10 kg, sempre con il riso candito per toccare la mia Milano e la paletta di fico d'India. Senti, a proposito della tua Milano, abbiamo un simbolo di Milano, uno degli artisti. O mia bella Madonnina. Abbiamo uno degli artisti più amati, proprio iconici, ovviamente della comicità italiana, ma soprattutto della città di Milano. E do il benvenuto a Renato Pozzetto. Come stai? Ciao, grande Renato, ciao. Come va? Tutto bene? Bene, bene, bene, grazie. Ma bene. Sei più un monumento tu o il panettone? Qual è dei due? Qual è il monumento più... Ma io ce l'ho messa tutto per rappresentare Milano, la mia città, non ho fatto nessuna fatica. Il panettone anche è stato un bel interprete, insomma, per la mia vita, è stata una bella compagnia. L'ho anche pubblicizzato, adesso non posso fare il nome del prodotto, ma insomma non so se vi ricordate il Natale quando arriva. Guarda, che ogni tanto lo diciamo anche proprio nella vita, quando c'è qualche collegamento alla radio. E poi è un dolce che veramente mi piace, io non è che sono molto appassionato di dolci, ecco, per esempio preferito le cose salate, i panini, quelle cose là. Sì. Però il panettone, insomma, è nella tradizione. Cioè il gastronomico, perché il gastronomico mi piace, è lo stesso impasto, però fatto senza agrumi e quindi diventa un impasto salato. Ma nella nuova Milano dove ti diverti andare a fare colazione, magari adesso che è il periodo di Natale, mangiare la fetta di panettone col cappuccino? Ho un appuntamento di tradizione in un bar che frequentavo da ragazzo. E siccome ho avuto la fortuna di abitare quasi tutta la mia esistenza a Porta Ticinese, dove sono cresciuto, dove ho coltivato, diciamo, quello che poi è diventato il mio lavoro, ecco, e soprattutto in un bar lì che c'è a Porta Ludovica, un bar pasticceria, lo posso dire, sì. Si chiama Gattullo, è una piccola realtà abbastanza famoso, per i milanesi, sono anche dei grandi panini, va bene, complimenti a Gattuso. Lo dico perché so che è vietato fare pubblicità, siamo sotto Natale, pochi giorni a Natale, quale sarà? Due indicazioni poi ti lasciamo, indicazioni sul menù. Il panettone l'ho già in menù di Natale. Tre piatti che ti stanno a cuore oltre al panettone del tuo menù di Natale. Succede sempre che io faccio un salto in Piemonte per vedere se trovo il tartufo. Ok. Vado a comprare la carne, poi ho un mio fratello che fa di tradizione, non so da quanti anni, fa per quei giorni i ravioli, quindi cominciamo con i ravioli e poi insomma non so, il tacchino, dipende dal festeggiate Natale, la vigilia o il 25 voi? Il 25, perfetto, perché noi il 24 sera andiamo da Nicola Savino la sera, quindi abbiamo bisogno di un appuntamento il 25, perfetto. Fra l'altro Porta Ticinese è anche vicina. Porta Ticinese, devi sapere, caro Oldani, che per i romani emigrati a Milano, quelli che ci vengono a vivere, è un luogo abbastanza, è un luogo al quale si entra subito in sintonia. Scusami, perché ci sono... ma Oldani dov'è? Lì con te? Siamo qui. Ma te l'ha detto che oggi ho telefonato per prenotare da lui e non mi ha dato il posto per giovedì, disgraziato. Vergogna. Vabbè, ma adesso ci mettiamo una buona. Ho degli ospiti che vengono a Milano, voglio fargli vedere. Cose belle di Milano, lui è un ristorante. Grazie. Renato, adesso ci penso io, poi ti mando un messaggio e ti faccio tac, tavolo sistemato. Per una magia, tac. Va bene. Renato, complimenti per tutto. Tanti grazie. Allora, buon panettone a tutti. Grazie, Renato. Un abbraccione. Grazie. Un abbraccio. Ciao. Capito, Porta Ticinese è un posto che ai romani piace molto perché ci sono queste stradine strette, c'è questo pavé per terra che ricorda vagamente il San Pietrino romano. Quindi è il primo po' quando un romano viene a vivere a Milano, proprio per le colonne di San Lorenzo, cioè è un posto. Milano c'ha. No, ma bellissimo. Sto bene. Io sono poi teorico della vita in più città e questa è una cosa che mi porto dietro. Insomma, si vive molto bene. Il tuo dolce di Natale, Pier? Guarda, il mio dolce di Natale non è sicuramente il torrone, andiamo per esclusione, che non mi piace molto. In realtà è diventato il panettone, però d'accordo con Savino anch'io, nel senso che da piccolo. Nella tua famiglia cosa mangiavi a Natale? Forse più il pandoro. Però, però a Roma c'era anche questa, questa tradizione del pandoro, del, del sì, panettone. Ma, no, vedi ma, che... sì, ma sì, assolutamente. Credo che qualche anno fa ci sia stato, adesso non ricordo il nome, un artista romano che anche lui ha vinto un premio importante di panettone. No, ma il panettone è un simbolo universale, come del resto anche il pandoro. Però io sono d'accordo con quello che diceva Savino, e secondo me qualcuno, non so se c'è un Pagnoncelli che vuole fare una, un sondaggio su questo, penso che il gusto cambi, nel senso che quando sei ragazzo il pandoro ha questa dolcezza. Preferisci il pandoro è per giocare tutti. Facile quando sei esatto. giovane, come dicevo prima. Poi però, e mi ricordo appunto che le cose che non mi piacevano, che erano uvetta e canditi, che non mi piacevano da, da ragazzo, poi in realtà sono quelle che dopo apprezzi, soprattutto adesso i canditi. Vai a scegliere, adesso apri il panettone, le scegli e senti, poi muori il resto. I farciti hanno dignità o no? Ma i farciti hanno, hanno la loro dignità, sì, anche se io devo essere sincero, apprezzo veramente la qualità grande della lievitazione col lievito madre, che ha profumi assoluti e poi questa, questa morbidezza che è veramente perché, un sogno. Perché adesso mi ha fatto pensare a Roma, mi è venuto in mente un panettone che fanno a Roma in Prati e allo Zabaglione, che poi te lo tagliano tutto a spicchietti, quella è una cosa. No, si può fare. Beh, questo, ragazzi, però se possiamo dare anche un consiglio su quello che poi il pranzo di Natale, il menù, non abbondiamo. No, se facciamo poche non cose, però ragazzi, fatte di qualità. Possono abbondare soltanto quelli che conducono programmi alla radio, possibilmente sulle radio talk tipo Radio 24 di cucina. Quelli hanno una dispensa particolare, io mangerò l'impossibile. Fra poco SOS Oldani, fra poco, e poi la ricetta e tutto il resto. Promo 24. Ogni giorno il futuro dell'auto compie passi sempre più importanti. Una nuova visione della mobilità che vede protagonista Volvo XC90. Il SUV svedese che esprime al meglio tutto il lusso scandinavo è infatti dotato di Pilot Assist di serie, il sistema di ultimissima generazione che assiste il conducente fino a 130 km orari. Il Pilot Assist consente di mantenere la velocità impostata adattandola ai veicoli antistanti, aiuta il guidatore a mantenere la corsia e a direzionare lo sterzo. Una nuova forma di libertà che a bordo di Volvo XC90 è unita a sistemi di connettività senza barriere per inaugurare una nuova dimensione di guida. Per saperne di più, www.volvocars.it. Mangia come parli, mangia come parli. Allora, mangia come parli, è arrivato il momento dell'SS Oldani. Vi ricordo il numero per i vostri vocali: 349-238-6666. Avete problemi col soffritto? Avete la pasta che non tiene? Il avete panettone che non lievita? Il panettone che non lievita? E allora c'è questa rubrica qui: SOS Oldani. Eccoci qua. Allora, partiamo da Elisa, da Milano. Elisa. Buongiorno, chef. La settimana prossima ho 4 ospiti a cena e un budget di circa 30 euro. Potrebbe consigliarmi un menù? Allora io direi assolutamente di andare nel proprio supermercato, dal proprio fornitore di carne, di pesce o quello che è, e cercare soprattutto il prodotto di stagione. Se sta sul prodotto di stagione sicuramente i 30 euro sono più che sufficienti. Esatto. Prodotto di stagione parlando sia di pesce che di carne, la un po' meno. Con la pasta poi si risparmia, però col carboidrato si risparmia. Sì, però non può mangiare un chilo di carboidrato, sennò potrebbe, un punto di vista, no, 2 però, euro certo, potrebbero certo, bastare, però certo. Per fare un menù armonico direi stagionalità sui prodotti della verdura, di pesce e poi se vuole anche un pezzettino di carne. Ottima idea. Lorenzo da Monza. Buongiorno chef Oldani, ho una curiosità. C'è un ingrediente che non sopporta e che non usa mai nelle sue ricette, oppure un bravo chef deve essere super partes, lasciare da parte i propri gusti personali come un arbitro mette da parte la sua fede calcistica durante una partita? Ecco, il confronto con l'arbitro poi magari ci spiegherà Pierre, credo sia così, sì. No, credo che non debba mettere da parte i propri gusti, perché altrimenti quello che viene messo nel piatto, cucinato e messo nel piatto, non rappresenterebbe l'idea dello chef. Credo che posso dire che alcuni ingredienti che non riesco a volte a sostenere, il mio fisico non sostiene, è il peperone in più forme che ho cucinato io, mi piace da morire, però ho questo problema di digestione. Peperone poi imbottito, il resto credo di essere disposto ad assaggiare tutto, un po' meno scarafaggi e queste cose che adesso vanno molto di moda. Ma van di moda, ma ricordiamo che dall'inizio dell'anno Oldani vuole fare una puntata sugli insetti. Io, De Luca e Ferronato, diciamo no. Paola da Roma. Una domanda per lo chef Oldani: qual è il suo piatto della memoria? Quello che si cucina quando si sente un po' giù? No, piatto della memoria rimane il riso a gialto, come dice la mia mamma, che ha sempre cucinato, possibilmente anche il giorno di Natale, quindi quando sento il profumo un po' di soffritto che fa la mia mamma e continua a dire di non farlo e lo fa. Oh, vedi che hai un cuore, vedi che sei un tenerone lì sotto, eh? Ci devo cadere, la mamma ha sempre ragione. Ma il soffritto, un po' di soffritto. Poco, però l'ha dimezzato, da quando ho cominciato a cucinare io ho cominciato poco soffritto, di mezzo. Però vedi qui l'elemento regionale invece, è chiaro che insomma il riso è il tuo piatto della memoria perché insomma... Ma poi soprattutto l'amore della mamma, l'amore che la mamma mette per cucinare per i propri figli. Senti, abbiamo una sorpresa e un grande ospite, perché abbiamo parlato molto di panettone, ma c'è l'altra metà del cielo, che è quella del Pandoro e dintorni della città di Verona. Grande amico, grande ospite, Giancarlo Perbellini. Giancarlo, buongiorno. Ciao Davide, buongiorno. Ti rubiamo un attimo di tempo alla tua... Cos'è il Pandoro per Verona? O l'Ofella, secondo te? O l'Ofella, cos'è l'Ofella? Allora, il Pandoro sicuramente è Verona. L'Ofella è da dove arriva il Pandoro, nel senso che mio nonno faceva questo dolce con le mandorle sopra e l'ha chiamata Ofella, a differenza dell'Ofella che è il biscotto di Novara, questo è un lievitato ed è un Pandoro con le mandorle sopra che, cuocendo all'incontrario le mandorle con il burro che rilascia la pasta del Pandoro, soffriggono e diventano dorate e si chiama Ofella apposta perché Ofella d'oro apposta perché è dorata sopra. Un po' come un Pandoro bello carico di burro. Ecco. Mi piace, molto interessante. E la sua è molto buona, è un'altra di quelle cose. Io ne ho fatto una che si chiama, l'ho dedicata al mio paese di nascita, si chiama Il Bovolone. E la produco nella pasticceria che ho aperto a Verona, che è la Dolce Locanda. Ma a Verona com'è il rapporto Pandoro panettone? 10-1? Ma insomma, Verona è il Pandoro, certo. Anche se poi se guardiamo tutti, la maggior parte dei produttori di panettone adesso sono veronesi, perché abbiamo fatto razzia in questo caso, però insomma, panettone è Milano e Pandoro è Verona. Sei lì, perché adesso è il momento per me più delicato della puntata, devo ripetere la ricetta che prima mi ha insegnato il maestro Oldani, per cui prego, jingle. Ti prego, aiutami. Ecco, allora, ma questo è semplice. Panettone, prendiamo 3-4 etti di panettone. Abbiamo scelto la versione, quella classica, con agrumi e uvetta, ma in alternativa c'è anche il panettone che sto seguendo adesso io nel mio ristorante, che è fico d'India e riso candito. Paletta di fico d'India. Giancarlo non l'ha ancora assaggiato, te lo farò assaggiare. Ecco, che facciamo? Lo ammorbidiamo in 3 decilitri di acqua calda per un paio d'ore, in modo che insomma diventi imbevuto. Poi a questo punto prendiamo un frullatore, lo frulliamo e lo mantechiamo dentro la gelatiera, no? Esatto, quindi facciamo un gelato un gelato di panettone che lasciamo riposare in frigo per circa 6 ore. A questo punto, siccome noi siamo fissati, lo sapete, sul rapporto fra caldo e freddo, fra sapido e dolce, prima aggiungiamo del panettone caldo, una fetta di panettone, la scaldiamo, il panettone è buono, esatto. Magari un'Ofella, un bovolone, aggiungiamo un goccino di rum leggero, proprio un profumo leggero, e mettiamo a cucchiaiate, proprio una piccola chenelle in gergo, una piccola chenelle in gergo, per me una serie di cucchiaiate infinite di questo gelato sul panettone caldo, esatto. Mi sembra una libidine. E poi aggiungiamo delle scaglie di sale, perché a noi se non ci piace mettere un contrasto non ci piace, non facciamo più cucina, lo famo giusto? Strano, come diceva perdone, devo dire che è una ricetta interessantissima, è vero. Vabbè. Io metterei il Pandoro sotto, perché c'è già un arcobaleno di profumi, giusto, del panettone, del gelato del panettone, poi questa punta di sale è straordinaria. Sai che facciamo? Allora mettiamo il Pandoro sotto e abbiamo fatto la pace panettone Pandoro. Il compromesso storico. Grazie maestro. Grazie. Adesso un minuto della canzone di Natale, quella che sentirete da tutte le parti. Noi, approfittando del fatto che giochiamo d'anticipo, vi proponiamo Last Christmas. È ovvio. Save me from tears. insomma, l'abbiamo sentita, è un classico, la sentiremo per tutto il periodo natalizio, immancabile su tutte le radio che fanno musica. Mi sono proprio divertito, devo dire che panettone Pandoro, ma abbiamo fatto questa ricetta che abbiamo fantastica, semplice, è un po' come sai la tradizione italiana, come a Napoli fanno l'insalata di rinforzo per il recupero del io direi che questa invece fa parte di una cultura nuova italiana. E un piccolo suggerimento, naturalmente, di comprare panettoni, non esagerare. Esatto. Perché sennò si è obbligati a mangiarli dopo e quindi il prodotto non più fresco non è più interessante, e di tenere la qualità del prodotto, ovviamente, cioè il panettone artigianale insomma mediamente ha un altro passo, anche se poi chiaramente c'è una vita quotidiana, esiste anche l'industria dei panettoni e dei pandori, ci mancherebbe altro, che meritano grandissimo rispetto magari per un utilizzo diciamo più quotidiano, però insomma se si vuole poi qualche volta concedersi uno sfizio diverso, allora c'è la genialità dei nostri maestri. È davvero tutto. Grazie. Come dicono quelli bravi Oldani. Noi torniamo la settimana prossima, faremo una puntata speciale dedicata alla cena del 24 e al pranzo del 25. Grazie, sarà una puntata a tutti. Super, ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti, grazie.